senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma non gliene frega un cazzo a nessuno di Montanelli. Ma guarda, difatti ho visto che gli frega un cazzo, sono di là e non vogliono la statua. E tu che è giusto buttarla giù? Ma giustissimo, ma scusa, c'è ma stato... vai tu allora, Coniglio, vacci tu da Roma in trasferta fino a Milano a buttarla giù. Coniglio, comune, Coniglio, Coniglio, Coniglio, Coniglio, Coniglio, vai tu, ma prendi il treno, prendi il treno e abbatti la statua, prendi il treno e abbatti la statua. Ma anche vergogna. Ma sai che secondo me Bruno da Roma è quello che è rimasto incastrato il testicolo nel seggiolino, Bruno da Roma. Ma io sono rimasto, io te lo metto un culo, stronzo. Bello. A te ti piace pure. Secondo me è a lui che è rimasto incastrato il testicolo del seggiolino. A te ti dispiace che è rimasto incastrato, perché a te ti piace pure diarlo un culo. Sei pure contro i gay, sei anche contro i gay. Tu trans. Vai che i trans tu, ma io anche fosse contro trans, anche, non vado. E perché trans. Sei contro i trans? Io, a me mi piace la figa. E perché sei contro perché i trans? Quando no, siamo solo perché, al primo perché giorno io non devo prendere in culo, tu ti piacciono i trans. Ma non piace. E oggi è solo lunedì. E oggi è solo lunedì. Io vi dico solo questo. Io vado a levare la statua di Montanelli. Devi avere le palle. È una vergogna che sta lì. E allora buttala giù. Ma perché devo andare a buttare giù? Che cazzo? Non c'hai le palle allora, non c'hai le palle, non hai le palle. Ma quanta la pippata stasera? No, fammi capire, ma che io c'ho le palle, ma io c'ho le palle per rompere il culo a te. Sono rimaste incastrate nel seggiolino. Ma perché devi avere le palle per rompere il culo a te? Tutte queste parolacce, sono rimaste incastrate nel seggiolino. Non venire a Roma, perché se te li intraccio te devo rompere il culo davvero io. Fermo là, davvero. Fermo là, fermo. Ma va, un culo. Parenzo, mi meraviglio di te che non gli dici un cazzo al tuo amico. Ma meno male che è l'ultimo anno, dai, che vi dobbiamo sopportare. Bruciani, sei il numero uno. Ma che Parenzo, sei il numero uno tu. Ascolta una cosa, volevo dirti solo una cosa. Quelli che hanno imbrattato la strada di Montanelli, con la lingua bisogna pulirgliela. E poi ci sono le registrazioni. Tu non istighi mai. Tu sei il numero uno, sei. Quando vai in televisione si devono inchinare a quello che tu dici. Sei il numero uno. Sono Federico, da Bologna. E anch'io vado a trans. I love my radio. Da questo canale. E siamo solo a martedì, caro David. Siamo solo a martedì. Questo solo è dramma. Martedì. Questo solo è dramma. Martedì. Questo è dramma. Solo martedì. Uno mi ha appena scritto cornuti, bestie, assassini. Io ho risposto chi? Tutti, voi e Cruciani. A chi si riferisce secondo te? Cornuti, bestie, assassini. Ma credo al tuo modo di fare disinformazione, al tuo modo di distruggere questo paese, alla grande possibilità che tu hai in mano di raccontare un'Italia straordinaria che si sta riprendendo dal post-Covid, sì. Un'Italia che cerca di non aver paura dopo mesi di lockdown, cassa integrazione che non arriva, eccetera, e si trovano invece uno spettacolo ogni sera con, orrendo, di la verità, orrendo. Oltre con nazisti, con gente che dice parolacce, squirtatori, una umanità devastante. Al massimo squirtatrici. Scusami, sì, squirtatrici. Una umanità devastata e devastante, diremmo. Una umanità, bello questo, è venuto così. Una umanità devastata, perché chi chiama qui è un'umanità devastata, ma anche devastante, perché distrugge il paese. Questo sei tu e questa è la tua responsabilità. Mi chiedo ancora, oggi, 16 giugno del 2020, come è possibile che il nostro editore ci mandi da 10 anni, perché anch'io sono qui da 10 anni, correo colpevole, assoluto di questa cosa, correo. Sì. in questa trasmissione. Al posto di questa trasmissione potremmo mettere ad esempio dei programmi degli approfondimenti, sì, dei programmi culturali. Sì, dei programmi culturali, dei, sì, focus, far parlare i filosofi, ad esempio, sì, sarebbe molto interessante. Sì, grandi ascolti, sicuramente. Far parlare dei sociologi, dei filosofi, sì, degli scienziati, ad esempio, perché non fare una bella trasmissione dedicata all'intelligenza artificiale? Perché, ad esempio, non fare questo? E invece no, e invece c'è Marco d'Arezzo. Affanculo, stronzi cornuti! Grazie per il suo contributo. Ora abbiamo in linea un signore di Forza Nuova. Lei cosa vuole fare? Bruciare i rom? Grazie, altra chiamata. Tutto così, non è più possibile. Ragazzi, intanto sorgono nuovi partiti. Il partito del brasiliano, credo che si chiami Periferie, sì, non so cosa, che cosa. Ma quale periferie? Sì, ti giuro. Ma lo so. Credo Famiglie e Periferie, una cosa, ma di questo, sì, tipo. Il nuovo partito Borgate e Famiglie, mi suggeriscono, sì, Borgate e Famiglie, il partito ovviamente di Pappalardo, che sono i gilet, sì, arancioni, ci mancherebbe altro. E pare il nuovo partito del signor Franzoni, quel signore, quella barista di Carrara, ah, il quale dice che la Merkel e gli Illuminati e Soros vogliono la riduzione della popolazione mondiale. Signor Franzoni, il tuo amico Franzoni, che è anche mussoliniano, vai. Di Maio ha condannato a morte l'economia dell'Italia e ha preferito spostare l'asse geopolitico della nostra nazione, sì, dalla piattaforma continentale a quella cinese, d'accordo con la Merkel, perché la Merkel, che fa parte di questo gruppo che sono gli Illuminati, che sono il nuovo ordine mondiale, quello che fa capo alle famiglie Rothschild, Rockefeller, a Soros, hanno un progetto di riduzione mondiale della popolazione, perché siamo troppi. Il leader di questo nuovo partito, non so come si chiamerà, probabilmente fascismo e non so che cosa, sì, dice, sì, che i comunisti sono finocchi e cornuti. Si chiama Franzoni, comunisti, finocchi, sì, sì, e cornuti. Vai. Chiaro, chiaro. Siamo di fronte a un branco di idioti, checche comuniste, sono checche comuniste, sono gente che gli trombano le mogli, vengono mentre in una stanza gli stanno trombando la moglie, vengono qua a fare le ordini di tastiera. Allora, in tutto questo, caro David, c'è Salvini, che una polemica su Salvini. Mentre è con Zaia in una conferenza stampa, mangia le ciliegie, e Zaia sta sempre parlando di morti, mangia di le bambini. Ciliegie. Ho capito, ragazzi, però con tutto. E tu non lo vuoi dire? No, io lo e sto tu dicendo. Non lo vuoi far vedere? Però fai vedere le immagini. No, le immagini fai non vedere, si possono vedere, le siamo immagini. Alla radio. Allora siamo vedi radio. Che lo censuri? Ma non vedi, sto censurando devi nulla. Devi far vedere, allora, le immagini, se hai coraggio. Si può fare polemica con tutto, con Salvini, su mangiava con cose. Nonchalance, quello parlava di morti. Ma che cazzo è un reato mangiare le ciliegie, cazzo? È un reato. Faceva lo spuntino del pomeriggio, lo spuntino del mattino, lo spuntino faceva, lo spuntino. Si mangiava le ciliegine, sputava il nocciolo. Ma raga, non sputava nessun nocciolo con le, non lo so dove cazzo lo mettesse il nocciolo, ma stava fai, lì fai con vedere il video, fai era vedere. Lì con le ciliegie che ma mangiava tu fai le ciliegie. Vedere il video, non lo fai posso far vedere la radio. E allora vedi che censuri? No, vedi che allora censuri. Zaia stava parlando di morti, di bambini morti, e quello mangiava, aveva un pacco di ciliegie davanti. La radio davanti. È morta, dai, vedi che non funziona più la radio, non c'è l'immagine, dai. Ma che c'entra? Ma non c'è l'immagine. Ma qual dai. È il problema? Non l'ho capito. Parlare di bambini mentre mangia uno che mangia le ciliegie. Qual è devi problema? Far vedere, devi far vedere, ti devo insegnare tutto, noioso sei, noioso. Purtroppo non riusciremo più ecco, a senti. Dare la vita a quei bimbi e ai bimbi che si sono ecco ammalati, ma sicuramente delle risposte anche sotto il profilo giuridico. Alle famiglie che hanno subito ecco lo mangia, ma quello parla di bambini morti per il Covid, e quello mangia le ciliegie. C'è davanti un pacco di ciliegie, era pure davanti a Zaia, e, ma è un reato mangiare ciliegie. Mangia le ciliegie? Ma dai, su ragazzi, non esageriamo. Cioè, dai, su, va bene tutto, però dai. Allora, andiamo allo show di Raimo, Cristian Raimo, esponente della sinistra, ragazzi. Consigliere, credo non comunale, ma di una, sì, sì, di una circoscrizione di a Roma. Uno un presunto scrittore, mi sembra, no? Presunto niente. Presunto scrittore, niente. O no? Uno scrittore, uno scrittore. Dire presunto? No, presunto, non so, non conosco le sue opere, dunque dico presunto. Lo conosci, no, tu mi confermi, sei tu sì. mi confermi che è uno scrittore. È uno io dico presunto, tu mi confermi perché? Che è uno scrittore. Perché tu sei un allora, lo no, denigri no, in questo modo. Ha portato un cartello ieri sera da Porro dicendo Montanelli, stupratore, assassino, non so che cosa, vai. Montanelli è stato, diciamo, sei cose fondamentalmente. Uno stupratore, confesso, nel senso che lui ha detto che questo leasing che aveva fatto con questa ragazzina di 12 anni, la madre la doveva tenere ferma perché questa ragazzina un po' si ribellava ed era difficile da penetrare, lui la penetrava con difficoltà perché era stata infibulata dalla nascita. Poi è stato un pedofilo, ma dichiarato, perché appunto aveva una bambina di 12 anni che chiamava un animaletto docile con cui si accoppiava perché gliela portavano una volta ogni 15 giorni, faceva il suo servizio, dice così, e poi gliela riportavano dopo. Aveva l'incubo di metterla incinta e quando se la scopava diceva che gli dava fastidio. Vabbè. Questa puzza di capra che c'aveva questa ragazzina. No, tutto vero, per adesso, non è falso, è tutto vero, assolutamente vero, lo ha raccontato lo stesso Montanelli, cioè. È stato un assassino e l'ha rivendicato nel 1936 perché diceva che le stragi che con gli Ascari aveva fatto la sua avventura coloniale insieme a moltissimi altri italiani, diceva che gli piaceva moltissimo trucidare i feriti quando stavano a terra, quindi con una violenza senza peso. Ragazzi, ma stiamo parlando degli anni 30, a parte che non gliene frega un cazzo. Però a nessuno. Non è che ha ricordato delle cose false. No, ma delle cose vere, ma della guerra. Non ha ricordato delle della cose guerra. Però ha detto della perché guerra. Ti scaldi così? Ha detto delle cose vere. Ma certo che ha detto delle cose vere, ma non c'è ti dubbio. Scaldi? Ma non perché, mi sto scaldando. Perché vai all'attacco di Raimo? No, perché ti scaldi? Io all'attacco. Ho detto, ha detto dicendo delle cose vere. Perché non lo fai sentire, ad esempio? Perché non lo fai sentire? No, perché lo censuri. Invece poi c'è la cazzata. Senti la cazzata, senti la cazzata. Parlare dei diritti dei neri, per parlare dei diritti dei neri, possono venire dei neri invece di starci 6 bianchi, 7 bianchi, 12 bianchi a parlare di vuole che cos'è che parlo razzismo con il suo e che gergo? È razzismo? Vuole che parlo con il suo gergo? Mi sembra una cosa veramente razzista questa. Perché cosa? Parlare dei diritti dei bianchi, dei gialli, dei gay, degli alti, dei bassi, cioè, dei pelati, delle cose, non c'è solo bisogno bianchi, di avere una lei. Roba di razza. Noi la pensiamo così, se lei non la pensa non mi è razzismo, dispiace moltissimo. È suprematismo. Ma non smettiamola, smettiamola di pensare. Ci hanno detto a sufficienza su Montanelli. Allora, secondo Raimo, la teoria è incredibile, per parlare di neri, oddio, non so, di razzismo, eccetera, ci vuole un nero, per forza, ci vuole per forza un nero in una trasmissione, se no altrimenti non si può parlare, altrimenti no, peggio, gli altri sono suprematisti. Beh, bianchi. Beh, magari avere anche il loro punto di vista sarebbe interessante. Andate comunque a fare in culo, andate a fare in culo, ma serenamente. Ma tu non sai cosa vuol dire vivere la discriminazione. Ma cosa c'entra? Tu io sto parlando di un'altra cosa. Tu non sai cosa vuol dire vivere la discriminazione, tu neanche porro. Ci vuole il nero porro per parlare, ma vergognatevi, no, di dire queste forza, cose. No, non forza, ma ti dà un altro punto di vista, ma anzi no, dà il punto di vista. Ma stiamo parlando di un'altra cosa qui, che cosa c'entra? Indro Montanelli non è solo violenza sessuale nei confronti delle bambine di 12 anni, è pedofilia. Non temono nessuna salita, superano ogni ostacolo e quando non c'è una strada se ne inventano una. Gli italiani sono inarrestabili, come Jeep. Ecco perché produciamo qui le nostre auto. Ripartiamo insieme, Italia. Solo a giugno zero anticipo, zero interessi, zero rate nel 2020 e inizia a pagare a gennaio 2021. Jeep Renegade da €299 al mese e Jeep Compass da €369 al mese. TAN 0, TAEG 418. Offerta soggetta ad approvazione FCA Bank. Info e condizioni su jeepofficial.it. Jeep, there's only one. La Zanzara. Fai paresta, attacca! Attacca! È normale. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid! Quindi, ricapitolando su Montanelli, se n'è andato in Africa e al posto di rendicontarci sulle bombe al gas che usavano contro i civili inermi, se ne andava in giro a offrire soldi ai padri delle bimbe dodicenne negre perché si voleva scopare una bambina. Va bene. Poi diceva che la giornalista che denunciò l'errore umano per la strage del Vajont era una mentecatta, certo, perché lì Montanelli aveva già capito tutto, bravissimo. E poi, dulcis in fundo, attaccò Falcone e Borsellino perché secondo lui erano solo due personaggetti in cerca di visibilità, ma certo, Montanelli hai capito proprio tutto, ma certo, e questo qua sarebbe il più grande giornalista della storia d'Italia. Capezzone. Sì, ma allora, nell'ordine, numero uno, secondo, terzo. A proposito di Capezzone, eccolo qui, Raimo contro Capezzone, aspettate, aspettate un attimo, Raimo contro Capezzone. Raimo vai, contro vai, Capezzone vai, da vai, popcorn. Vai, stupendo. No, Raimo stupendo. Contro Capezzone da popcorn. Stupendo, stupendo, stupendo. Vai Daniele, all'attacco, all'attacco! No, Capezzone, no, come Capezzone contro Daniele. No, Raimo contro ma Capezzone, che, voglio uguale, io. Uguale, uguale, uguale. Io l'autorazzismo lo capirei solo se fossi Capezzone. E tu invece in quel caso sei proprio sarei un coglione, po' razzista. Guarda, tu invece sei coglione no, no, con no, la patente, no, no, no, no, sei coglione non dire con parolacce, la patente non dire parolacce, ufficiale. Non dire parolacce. No, ma la, si è presentato. L'idea dell'autorazzismo è proprio un'idea che fa parte di una concezione suprematista, Bianca. Tu sei proprio svalvolato, guarda, sei proprio svalvolato con la patente. Guarda, sei partito male stasera. Hai scritto su Facebook che sei venuto con la pasticca di cianuro, ma ti serve un'altra pastiglia per essere più equilibrato, più civile e per esprimere gli argomenti con un minimo di senso logico e di rispetto per gli altri. Perché altrimenti, guarda, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Capezzone, neanche al barietto stai così, veramente. Io sto facendo un discorso no, molto diverso. No, al barietto ci vai tu con gli amici tuoi, guarda. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Ci no, vai no, con no, Cesare no, Battisti, che ti fermi. Ci vai con Cesare Battisti, assassino e terrorista, per cui tu firmavi gli appelli nel 2004-2005. Scusati davanti però ai telespettatori. Però non c'entra nulla questo. Bene, molto bene, molto bene all'attacco. Però l'ha fatto sbroccare. Molto bene. Ma che c'entra? L'ha fatto sbroccare, Capezzone. Sull'autorazzismo la fa, vai al baretto senza urlare, vai al baretto, Capezzone. Hanno toccato il tuo amichetto, il Capezzone l'hanno messo all'angolo. L'hanno messo all'angolo il Capezzone e lo elogio quando c'è bisogno di elogiarlo. Non ha fatto 1, 2, 3, non ha contato più. Perché non conta più? Ma che cazzo dici? Non ha contato quando Raimo lo ha incalzato. Lui non ha detto che era Raimo. Ti voglio dire una cosa: numero 1, numero 2, numero 3. Non l'ha detto, non ha contato. Battisti, ma non ha contato, vabbè, non ha contato uno, due o tre, non ha contato. No, mi stupisce che su questa cosa di Montanelli ci siano persone che sono anche delle teste pensanti, penso per esempio al mio amico direttore di Radio 3, Sinibaldi, che dicono che bisogna intitolare una statua alla ragazza Destà. Cioè, una bella idea. Ma però, non questa. Rompete i coglioni, l'avete fatto diventare il vostro idolo quando andava contro Berlusconi. Vergognatevi. Vergognatevi, per 30 anni è stato il vostro idolo semplicemente che andava contro Berlusconi. Adesso si risveglia la passione contro Montanelli, di cui non frega un cazzo a nessuno. Vi dovete vergognare. Nessuna passione contro Montanelli rimane un grande giornalista, secondo quando me. È andato con Berlusconi è diventato un idolo. Vergognatevi, come al solito, vergognatevi. Ma vergognatevi chi? Voi, per te Montanelli era ma un idolo quando andò contro Berlusconi. Il Capezzone quando andò 2. Contro Berlusconi era diventato un idolo per voi. Ma no, della sinistra. Abbandonò il suo editore perché non voleva Buffone, essere condizionato dalla sua discesa Buffone, in campo, senti, quindi dimostrò di nuovo una indipendenza, una cattivo, sua indipendenza. Vabbè, poi sì. Quello che ha fatto del passato rimane però. Sì. Non è che si cancella quello che uno fa Roberto in passato. Milano, forza. Non c'è il condono. Anzi, Marco da Bari, forza, Marco da Bari. Pronto? Dimmi Marco, dimmi. Allora, io che bello, inizio il circo io, mi piace. Inizia quando... il circo tu, dai, inizia il circo tu. Allora, Cruciale, a te piace sempre le cose delle donne, i peli. Beh, i piedi, il pelo, ma, sì, eccetera. Ma la voce, sì, d'accordo, voce. Anche, sì, la voce. Ti arrapa la voce. Sì, da morire. Peppe, da quanti morire. Anni hai, Marco, scusami? 19 anni, ti arrapa la voce delle donne. Vabbè, questo è comprensibile, però, se una voce non ti piace, è difficile, cioè, per carità. L'altro giorno avete mandato scoparti, quella che diceva della mascherina. Anche, abbiamo scopato di peggio anche uno una brutta voce, pure pagando, come diceva un nostro amico, no? Cioè, sì. Pure pagando abbiamo scopato di peggio, cioè, magari qualcuna che aveva una voce bruttissima, ma questo non vabbè, vuol dire nulla. Conta anche, è una delle cose che... Una delle vabbè, cose d'accordo, che... quello lo sappiamo, non ci stai dicendo una cosa originale. Cioè, a te non... E poi devo dire a Parenzo che io di solito sono d'accordo, ma che ha detto una stronzata clamorosa l'altro giorno. Su che cosa? Ha detto che questo segno di ginocchiarsi per George Floyd sì. È un segno che è nato dal fatto che il poliziotto si inginocchiasse, era inginocchiato su di lui. È sì. Una grossa cazzata. Sì. Perché già 3 anni fa sì, un giocatore dell'NFL Kaepernick sì, allora, però ragazzi, voi siete malati. Cioè io odio, ormai ci sono dei professionisti delle anti-fake news. Sono i i più insopportabili di tutti, quelli che rompono il cazzo su ogni cosa. Ma non è giusto. È vero, vabbè, si sono inginocchiati. Ho capito, è una cosa che risale a un giocatore di football che era, come dire, non voleva essere, che non è stato ingaggiato, pare, per razzismo, una storia complessa. Ma chi se ne frega? Siete i perfettini, avete rotto i coglioni, siete i professionisti delle anti-fake news, quelli che di professione combattono le fake news. Hanno rotto il cazzo pure questi. Avete rotto i coglioni, Roberto da Milano. Sì, certo. Ma avete rotto i coglioni. I professionisti delle anti-fake news hanno rotto i coglioni. Comunque, come i professionisti dell'antimafia. Daniela Martani ha una bellissima voce, peccato per quello che dice. Beh, no, la voce in realtà non è così bella. Roberto da Milano ha, diciamo, altre bellezze, sì, magari nascoste, non lo so, però la voce non è proprio il suo punto forte, devo dirti, anche abbastanza fastidiosa. La voce. Roberto da Milano, vai Roberto, dimmi. Cioè, la voce non fa rapare, la voce della Martani, diciamo, la verità, non fa rapare. No. Dimmi Roberto, dimmi. Ciao, buonasera, sono Roberto da Milano. Dimmi, Roberto, dimmi, veloce, dimmi. Che vi ascolto da tanti anni. Dimmi, veloce, vai, dimmi. Non lo so, ditemi voi, lavoro nel Lavorate Furie. Vai a cagare, vai. Arrivederci, dai. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Guarda, è qui che costruiremo la nuova sede. Adesso? Sì, è il momento di investire. Sei matto. Me l'hai già detto, ma quante volte seguire i nostri sogni ci ha dato ragione? Le opportunità sono di chi le sa cogliere. Scegli la tua nuova Porsche oggi e inizia a pagarla tra un anno. Restart Lease è la risposta di Porsche per superare questo momento e ripartire insieme. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni, consultare i fogli formativi presso i concessionari aderenti e su Porsche.it. Offerta valida fino al 10 agosto 2020, salvo approvazione della finanziaria. La Zanzara. Chi vende droga deve marcire in galera per anni. Chi vende droga deve marcire in galera per anni. Ma che cazzo di roba mi avete dato, brutti stronzi? Mi sta girando la testa, vedo lampi negli occhi. Ma che roba era quella? Roba tagliata male, per caso? Zanzare fa marijuana, oh oh oh. Zanzare fa marijuana, oh oh oh. Zanzare fa marijuana, oh oh oh. Zanzare fa marijuana, oh oh. Voi propagandate la droga! Stasera sei proprio carico, sei grandissimo! Sì, sono due settimane che sono carico. No. Terminati, Mafia Capitale non esisteva dunque. Però, ragazzi, arrivederci. Arrivederci. Oh no, she's not a secret now. Io mi chiamo Massimo Carminati, senti dello suo nome. Io sono quello che abita là. Ciao, sono Giorgio da Torino. Anche io piscio nei lavandini. I love my radio. Ciao, sono Gianni da Genova e anch'io adoro farmi fare le seghe coi piedi. I love my radio. Ciao, sono Sara da Treviso e se la zanzara chiude me la raso a petto di pollo. I love my radio. Cosa? No, ma io trovo veramente insultante questo remake degli spot che vengono fatti ai Love My Radio, che è una cosa orrenda, è una declinato su queste terribile, porcherie, un'iniziativa terribile, ma adesso che viene smontata pezzo dopo pezzo da questa collezione degli ascoltatori. Può essere pezzo, una cosa I smonto Love My Radio. Tutto, voglio smontare tutto, smontare tutto. Intanto, come sai, Carminati, dopo 5 anni e rotti di carcere, è stato scarcerato e tu sei contento, mi sembra di capire, no? Contento. Cioè, mi sembra di capire che sei contento. Ma è questione di eccolo là. Dillo, ma non è dillo, questione, sono contento che non è questione no, di contento. Dillo, me l'hai detto prima. Sono devi avere il coraggio termini, di dirlo, coraggio sei contento. Sto dicendo, ma contento sei per chi contento. Mica io sono Carminati, mica sono sei un criminale, contento. Io l'ho mai conosciuto in vita mia, quindi non ho idea. Dico dal punto di vista del diritto, Carminati libero per scadenza dei termini. Quindi sono scaduti i termini, è stato semplicemente applicato il diritto, tutto là. Oh, benissimo. Adesso Parenzo, è inutile due che punti, contento della scarcerazione di Carminati. Ma non so mai detto che ho contento per l'applicazione del diritto, semmai, non per il fatto. No, guarda, puoi dire il fatto che non Bonafede avere paura ora mandi, perché stai iniziando una trasmissione come al solito. Non devi avere paura di dirlo. Di cosa dovrei sono avere paura? Contento per l'uscita dal carcere di Massimo Carminati, detto il cecato. Sono contento perché fascista, hanno eccetera, eccetera. Mamma sono mia. Contento. Ma guarda come rimesti. Sono contento che sia stato applicato il diritto. Il diritto. C'è qualcosa dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione. Beh, è giusto che sia stato scarcerato. È stata accolta l'istanza dei suoi legali, dell'avvocato Cesare Placanica. No, ma dillo, perché non è stato non ti preoccupare. Un chi principio sei, di civiltà giuridica. Sì, un principio valutato dal Tribunale della Libertà. Scusi, Pannella, lei dall'alto dei cieli avrebbe candidato Carminati nelle liste i radicali avremmo detto Carminati non è Mafia Capitale, perché la sentenza lo ha detto. Abbiamo detto che se ritorna libero può diventare Carminati leader di una coalizione garantista, antipopulista, antiproporzionalista, radicale, liberale, libertaria e liberista, nella quale non c'è il diritto al crimine, ma c'è il diritto al risarcimento del danno. Grazie. Dello Stato di diritto. Grazie, no, è sempre un piacere Corte Costituzionale, partitocratica. Noi però vogliamo ricordare non tanto adesso le polemiche sulla scarcerazione dell'Associazione Nazionale Magistrati. Lei sta nell'alto dei cieli, non so dove. Radicali Carminati. Va bene, abbiamo capito. Radicali per Carminati, va bene. Carminati radicali, va bene. Noi però ce lo vogliamo ricordare in questa veste. Noi candidati. Ce lo vogliamo ricordare in questa veste qui, sentite. Io mi chiamo Massimo Carminati, senti dello sto nome. Cosa sei? Io mi chiamo Massimo Carminati, senti dello sto nome. Sparati un colpo nel culo a te e con la troia di tua madre. Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo. Carmina, segnatelo tu, figlio di puttana. Cosa Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io. Bastardo. Segna questo nome, ascolta a me. Così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Tu sei un ladro, figlio di puttana. Io sono quello che abita là. No, uno stronzo. Segna questo nome, ascolta a me. Così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Metti il numero di telefono, sai le palle. Metti il numero di telefono, stronzo. Massimo Carminati, segnalo. Capito? Massimo, segnatelo. Culo. Te e Massimo Carminati, cornuto. Se non mi attaccate il telefono entro domani, a me non mi frega un cazzo, vado su spazio. Guarda che cerca te. Questo è stato uno dei top assoluti. Signor Fede. Daniele da Vicenza, avanti tutta, dai, Daniele da Vicenza, sì. Ragazzi, era stupendo. Era. Ciao. Dimmi. Ciao. Ciao al cazzo, dimmi, sì. Daniele, dimmi. No, rompere i coglioni perché sono 3 giorni calma, molta calma, devi stare tranquillo e calmo. Una trasmissione. Devi stare calmo e tranquillo. Tu non devi più dire che quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza si devono vergognare. Oh. Perché io ho 38 anni di lavoro. Bravo. E non dire più quello che. Ma io sono contro il reddito di cittadinanza. Allora mi fai vivere. Io sono contro il reddito di cittadinanza, chiaro? Chiaro? Ti vai a cercare un lavoro oppure vieni assistito in un altro modo? Ma io sono contro il reddito di cittadinanza. Ascoltami un attimo. Posso essere contro il reddito di cittadinanza? I soldi che percepisci tu al mese. Ma cosa c'entra questa? Cosa c'entra? Ho capito, ma che devo fare io? Ma è mica certo, è colpa mia. Certo. Parla l'attacco. Parla l'attacco. Bravo. Parla l'altro. Sì, certo che parla. Allora, io non prendo in giro la gente. Daniele, bravo. Il reddito di cittadinanza è sbagliato e molte persone caro si Daniele, devono vergognare quei boss mafiosi che prendevano il reddito di cittadinanza. 450.000 euro guadagna Cruciani con la casa villa in Umbria a 4 piani e ha costruito un abuso edilizio di piscina e poi parla dal microfono della vicina, radio. La vicina, ma vicina. È una vita che penso di farla vicina, non riesco a farla perché a non mi danno i soldi vero, i miei parenti per farla, perché da solo non la voglio pagare ancora. Che spilorcio. La cosa è incredibile, non mi danno i quattrini, devo pagare solo io la piscina, ma vaffanculo. Daniele, dimmi. c'è tensione in famiglia, eh? Sì. Percepisco c'è per, cioè, nessuno mi dà un euro per fare la piscina, devo fare la piscina io, magari. Ma con volte. Tutti i soldi che Bruttani. Guadagno in quella casa, dai. Ma vai a fare il culo. A prendere in giro la gente, dimmi. Che chiama. Allora, quanto prendi di reddito di cittadinanza, Daniele? Dimmi. Quanto prendi di reddito di cittadinanza? Quanto? 280 euro. 280 euro, per carità. Ma come ti permetti di metterlo così nel mezzo? Vado a chiedere l'elemosina dai parenti. Ma io mica ho detto che ti devi vergognare. Tu chi l'ha detto che ti devi vergognare? Io ho 38 anni di lavoro alle spalle. Ma, okay? Ho capito, Daniele, ma va bene che se tu va ma bene non che devi, non devi più dire che no, uno che percepisce il reddito di cittadinanza. Io lo dico, vergognare. Io lo dico, devi, perché ecco, mi scrive, fermi tutti, mi scrive giustamente Pierluigi Pardo: chiamiamo subito i parenti di Cruciani, qui scatta il piscina gate. Grande Pardo, hai ragione, qui scatta il piscina gate, dice il grande Pardo. Ma il piscina gate di che? Vorrei fare una piscina a casa mia, ma non riesco a farla perché ci sono alcuni stronzi che non mi danno un euro, chiaro? I tuoi parenti sarebbero stronzi, detto, alcuni quindi. Stronzi, alcuni stronzi. Mica noi, tuoi parenti, non miei. Vicenza, pensa, alcuni sono stronzi, alcuni sono stronzi, alcuni sono stronzi. Posso dire che alcuni sono stronzi senza fare riferimento? C'è un brutto clima in famiglia Cruciani. Non posso dire che sono stronzi. E quell'altro poveretto che ti chiama, che prende 200 euro di reddito di cittadinanza, si sente 200 euro, lo voglio abbracciare fortissimo. Se vuoi ti do una mano, Daniele, ti aiuto. Ma cosa? Ma che come, ti posso, ma che sei? Come posso aiutarti, Daniele? Come ti posso aiutare? Dimmi, come ti posso aiutare? Io vorrei avere la pensione. Ma ho capito, la pensione, amico mio, la pensione non la posso da io. Ma che cazzo sei, Achille Lauro? Ma chi sei? Achille Lauro sei che regala i piatti di pasta? Ma vergognati! Bruttani. Vergognati! Aspetta, aspetta. Achille Lauro dei miei coglioni che parla dal microfono della radio. Daniele, dimmi, che cosa c'è? Dimmi. Achille Lauro. La pensione, come, che c'entra? Perché non hai la pensione? Quanti anni hai, Daniele? Scusami. Io ho 58 anni. Beh, amico mio, la pensione ha 58 anni, però non è che siamo ancora ai tempi della baby pensione. Ho iniziato a lavorare a 14 anni. Vabbè, quello è un altro discorso, ma quello è un'altra, la vedi, te la vedi? Ma ho capito, sto Cruciani, che cazzo? Sto qua, sono qui. Aspetta. Bruttani. Oddio, fermo un secondo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it. La Zanzara. Ciao, sono Sebastiano Barisoni, Radio 24, e questa volta non sono solo. Ciao, sono Gianmarco da Roma e anch'io mi nutro di succo bulbare. I love my radio. I love my radio. Parenzo. Bruttani. Allora Parenzo, io sono della maggioranza silenziosa, ok? E concordo con quasi tutto quello che dici. Però okay. Indro Montanelli nella sua vita è stato colonialista, pedofilo, stupratore, repubblichino. Ha scritto sulla difesa della razza con Telesi Interlandi delle cose orrende sulla superiorità della razza bianca sugli ebrei e sui neri. E secondo te è una barbarie, è una follia, sì, contestare, beh, la statua? Ma no, ma secondo te è una barbarie dire che Montanelli non merita di essere glorificato, perché la storia si scrive nei libri, le statue si ergono per glorificare i personaggi famosi. Allora possiamo non glorificare un pedofilo, colonialista, stupratore, repubblichino e razzista? Si può dire non glorificare senza che tu dica da uomo di sinistra che è una follia o una barbarie e contestare Montanelli? Eccoti, questa vicenda qua ti spiega perché la sinistra in Italia non vince e non vincerà mai un cazzo. Nulla. C'entra nulla questo, perché di Montanelli non frega un cazzo a nessuno. Ma nessuno, ma poi perché ci divertiamo solo noi qui? Distruggere una statua. Comunque pure contro la sinistra ti sei messo, pure contro la sinistra, ti sei messo pure contro la sinistra. Tra l'altro scrisse pure una lettera quasi d'amore, non dico di difesa, di Priebke, del signor Priebke, del tuo amico Eric Priebke. Sbagliò clamorosamente perché disse che in quel processo aveva soltanto eseguito degli ordini, quindi da militare non doveva essere, l'ho letta bene quella cosa, non doveva essere condannato. Una puttanata solenne, perché invece per fortuna lo hanno condannato. Ma il tema non è questo, perché il vero tema della serata è un altro. Abbiamo da una parte una persona che percepisce 250 euro di reddito di cittadinanza, che viene sbeffeggiato da un conduttore radiofonico che guadagna 450 mila euro al mese, ecco qua, ha un contratto da inviato e non si è mai mosso da Viale Monterosa. In genere gli inviati, ecco, vedi, solitamente gli inviati in genere fanno un moto a luogo almeno. Invece lui sta solo a Viale Monterosa. Ecco che ti chiama. E abbiamo appreso che ha una villa in Umbria. Questo già lo sapevamo, e diremo in quale località, peraltro, vicino Roma. Sì, inizia con la FIC. Località FIC. È notorio. FIC. Vi ricorda anche qualcosa che piace a Cruciani? FIC. FIC è il nome della località. Ficulle, sì. Ma appunto, che vuole questo? Questo cazzo di reddito di cittadinanza, porca puttana. Abbiamo appreso che c'è una violentissima lite in famiglia, perché lui addirittura vuole farsi dare i soldi per costruire una piscina che gli altri parenti non useranno mai, che invece usa solo lui, che vorrebbe far costruire con i soldi del resto della famiglia. Allora, mettere in piazza questa cosa la trovo vergognosa. Vergognosa. Ma è la verità, però, è la verità. Pazzesco. Nessuno vuole cacciare i quattrini, perché non li vogliono spendere su quella cosa là. Non capiscono che così si investe. Ma perché lo devi dire in diretta? Ma perché voglio dire tutto, investe. Perché voglio liberarmi di questa cosa. Perché ci sono degli stronzi che mi sono. E ma non chi faccio sono i nomi, no. Ma come? Aspetta, se sono i parenti, scusa. Ma no, ma sono in generale, ci sono dei. Che vuole questo? Costare di cittadinanza. Chiama, vedi. Dica, parli. C'è uno che mi scrive dica. Sei un uomo di merda. Vabbè, sono un uomo di merda. Vabbè, sì, perché metti in mezzo la famiglia. Andrea da Verona. Distruggi Andrea la gente che avete reddito di cittadinanza. Andrea, da Verona, dimmi. La piscina vuole lui. Fatta pagare dagli altri. No, insieme, cazzo. No, insieme. Andrea da Verona, dai. Perché tanto gli altri parenti non la usano mai. Andrea, la useresti solo tu. Dimmi, Andrea, dimmi. Di un egoismo, guarda. Dimmi, Andrea, ci siamo? Sì, ci siamo. Non mi fa benissimo. Dimmi. Ah, niente, volevo dire una cosa per quanto riguarda Enzo Montanelli. Sì. Siamo, come dici tu, giustamente negli anni 30 c'era un altro tipo di sensibilità. Fermo restando che andare con una bambina di 12 anni è per. Sì, però amico mio, ti devi far sentire, alza sta voce, se non si sente un cazzo, dai, su, cioè, dai, amico mio, forza, coraggio, su, coraggio. Niente, Antonio da Padova, dai, forza. Antonio da Padova. Capisco, la gente che chiama, la gente che chiama da posti dove non si sente un cazzo. Loro sanno che non si sente un cazzo e chiamano perché pensano di stare non so dove. Chi è questo? Pronto, mi senti? Aspetta. Mi senti? Aspetta un attimo. Aspetta. Bruttani! Oh, chi è questo con reddito di cittadinanza che rompe i coglioni? Aspetta. Chi è adesso? Pronto? Risponde la segreteria telefonica. Dopo riproviamo. Antonio, dimmi. Chi è? Voglio sapere se mi senti. Ti sento, cazzo, ti sento, okay, ti allora, sento. Dimmi. Su Montanelli non bisogna dire troppe cavolate. In Montanelli, che senso? Innanzitutto una ragazza in Etiopia, in Abissinia, a 12 anni, non è una bambina. Primo. Beh, insomma, adesso cosa, non esageriamo, ragazzi. Beh, bambina dappertutto, però, scusa. Ragazzi, adesso non possiamo dire che va bene. Secondo lei è una bambina, una di 12 anni, però, amico caro, ma mi sembra una stupidaggine. Adesso non possiamo dire, a me non me ne frega un cuore. È successo negli anni 30, quello faceva il soldato, ne succedevano di tutti i colori, in tutto il mondo. Stupravano, ammazzavano, non erano reati all'epoca, beh, forse tutti, in Europa. Però. Sì, d'accordo, non tutti. David, ma di che cosa stiamo parlando? Ma veramente stiamo parlando ancora delle violenze degli anni 30 di Montanelli nei confronti di questa qua? No, ma infatti è una dai, cosa assurda. Su, questa, ma di che parliamo? Dai, con qualcuno che propone le statue per questa ragazzina o le statue per le donne stuprate in generale. Beh, ma questo potrebbe essere una cosa interessante dai, sulla su. Memoria collettiva, potrebbe ma essere interessante. Questo potrebbe coglioni. Essere interessante. Dimmi Antonio, dimmi allora. Dimmi Antonio, dunque? Antonio. Dunque, Montanelli non è stato repubblichino, è stato condannato a morte, era in galera a San Vittore con Mike Buongiorno. Ma sì, non lo so adesso, repubblichino l'ha detto quell'ascoltatore lì. È riuscito a scappare per intercessione di non si sa bene chi. È vabbè, stato allora che vuoi? Morte dai nazifascisti. Vabbè, Marco da Mantova, dimmi, Marco da Mantova, dai, forse. Sì, questo è vero. Marco da Mantova, dimmi. Pronto Cruciani, dimmi, sì, Marco, sono Marco. Dimmi. Niente, ascolta, volevo dire una cosa. Anche cosa sulla faccenda dire? Dentro di Indro Montanelli. Cosa volevi hanno dire? Sbagliato, hanno sbagliato a fare una statua mentre lui scriveva macchina. Voglio ricordare che Indro Montanelli è stato gambizzato dai compagni che sbagliano. Cioè, dalle Brigate Rosse, certo. No? Certo. In quel giardino. In quel esatto, giardino dove c'è la statua, allora, certo. Marco, allora? E ci ricordiamo di quello che ha fatto lui 30 anni fa? No, veramente più di 30 anni fa, 60 anni esatto, fa. Esatto, per cui questa isteria collettiva. Ma non è un'isteria collettiva, sono quattro rincoglioniti, secondo me, che si eccitano a ricordare che quello è stato con una bambina di 12 anni, 14 anni. Si eccitano, capito? Si eccitano per questa cosa qua. Dai, Emilio da Milano, dai, forza. Buonasera. Buonasera. Dimmi Emilio. Io, francamente, scusate, non capisco questo sacro fuoco contro Montanelli. Ma no, ma non è questo, ragazzi, non frega un cazzo a nessuno. La gente pensa alla figa, ci sono un gruppo di vandali. Ci sono semplicemente un gruppo di vandali che hanno vandalizzato una statua, e che è una cosa abominevole. Dopo questa roba qui di Floyd in America, che tra l'altro non c'entra un cazzo, sono cose diverse, di epoche diverse, non c'entra nulla di nulla, niente. Volete andare a scovare tutti i razzisti? Dovrebbero abbattere tutto il Vaticano. Abbattiamo il Vaticano. Se è per questo, allora distruggiamo il Vaticano. No, ma per dire, se uno va alle estreme conseguenze, allora abbattiamo il Vaticano, perché è simbolo di tutte le oppressioni. Ma nessuno dice. Fermi tutti, c'è un aggiornamento. Mi scrive un importante dirigente di Cucci Terme di il quale dice giustamente: Cucci Terme, il grande complesso di Bormio, eccetera, di Milano. Mi dice: visto che alle volte il signor Cruciani è venuto a scrocco delle piscine delle nostre terme, andremo noi a costruire gratis la piscina del Villone in Umbria. È il capo, l'amministratore delegato dei Cucci Terme Milano. Ma no, veramente a scrocco non ha detto, cioè nel senso che non è visto le volte che è venuto a scrocco nelle piscine delle nostre terme, virgola, andremo noi a costruire gratis la piscina nel Villone in Umbria. Figuriamoci. Sempre a scrocco, cadi sempre in piedi. Voi ricchi cadete sempre in piedi. Allora ragazzi, andiamo un po' più in basso, perché mi sono rotto i coglioni di parlare di Montanelli. C'è un signore, un trapper o presunto tale, non so manco che cazzo faccia questo signore, che si chiama Jay Baby, una cosa di questo tipo, che minaccia apertamente un consigliere regionale dei Verdi, famoso per le sue denunce a Borrelli. Ma voi dovete sentire, adesso sentirete, il tenore di queste minacce. Cioè è una cosa incredibile, io non capisco ancora perché non sia intervenuto nessuno su questa cosa qua. Cioè questo pubblicamente, questo, trapper dice al signor Borrelli, che molti di voi conoscono per le sue denunzie a Napoli contro qualsiasi cosa, contro i criminali, contro la delinquenza, contro l'illegalità diffusa a Napoli e in Campania in generale. Signor Borrelli viene minacciato apertamente da questo qua, da questo specie di, da questo personaggio tutto tatuato, che non è napoletano tra l'altro, non so manco di dov'è, credo siciliano, una cosa di questo tipo, ma non lo so, non mi interessa perché non lo conosco. Ma sentite che roba che dice questo, dice di essere fatto, che vuole andare a Napoli a dargli le coltellate. Io penso sia un fake, invece mi hanno detto che è vero, è tutto vero. Vengo a Napoli, te lo giuro che minchia, vengo là, ti do 4-5 coltellate, capito? Bang! Fiero di non avere mai lavorato, guarda qua, mai lavorato, solo ciocchi, hai capito? Pezzo di merda, le spie come te ce le facciamo, pure a Napoli tutti i clan ti vogliono fare, fai schifo, sto tutto fatto, hai capito? Me ne fotto un cazzo, hai capito? Zero lavoro, snitch di merda, devi fare una brutta morte come Saviano sotto scorta, guarda qua, ti tiro fuori il cazzo, posti questo, pezzo di merda, sei uno snitch del cazzo, sto tutto fatto. Oi bro, oh, fanculo lavoro, fanculo Borrelli, spia come Brumotti. Bam bam. Poi gli manda anche dei messaggi, credo sul suo telefonino, che è noto, no? Che è un telefonino che tutti hanno messo lì appunto per le denunzie, no? Senti questa, senti questa. Sei una spia, Borrelli, hai fatto la tua scelta e prima o poi ti fanno. Ha infame! Te lo giuro che quando vengo, te lo giuro, come scendo in stazione a Napoli Centrale, se sto venendo da te c'è mezza Napoli che vuole farti. Te la faccio pagare che hai postato la mia faccia, pezzo di merda. La zanzara. Lorenzo, fai schifo. Tra l'altro Sgarbi mi scrive: mi pare più giusto parlare della cinquantenne stuprata da Paolo Massari. Ovviamente per adesso è solo un'accusa, anche se i verbali e le parole di questa signora, di questa ragazza, per me di questa donna, sono molto circostanziati. Io conosco Paolo da tantissimo tempo. Lo conosco anch'io Massari da tanti anni, però non lo sentivo da 6-7 anni. A me ha scioccato quando ho letto la notizia, perché anch'io l'ho conosciuto avendo lavorato come sai a Milano. Posso dirti la verità, a me mi ha scioccato la notizia ovviamente della violenza, che lui avesse un atteggiamento nei confronti delle donne un po', diciamo, faceva delle avance un po', diciamo, no, Non posso definire, perché non vorrei sbagliare la definizione, però da qui alla violenza anch'io mi sono stupito della violenza, che fosse uno molto, come dire, no aggressivo, che insomma facesse delle avance anche continue nei confronti delle donne. Vabbè, ma le avance non sono un reato. Quello che gli viene contestato qui sono cose gravissime. Ma che scherzi? No, ma assolutamente. Io non ho idea di cosa sia, come nessuno di noi ovviamente, è accaduto, perché abbiamo solo la testimonianza di lei e i referti dell'ospedale. I referti sono i referti, cioè hanno trovato anche delle tracce di sangue, eccetera. Esatto, cioè, abbiamo la testimonianza, ho detto, la testimonianza di lei e i referti dell'ospedale. Mi fa molto strano che una persona così possa trasformarsi in un mostro. A me non mi fa strano nulla. Sì, se lo conosci ti fa impressione. Beh, come no, mi fa. A me non mi fa se strano non lo conoscessi. No, a me non mi fa strano niente, posso dirti, non è che non mi fa strano, a me non, mi stupisco di nulla. Di te, ma no, ma scusa, scherzi a parte, mi conosci. Conoscendoti. No, io non conosco Massari come conosco te, perché siamo mai amici da 10 anni. Posso dirti una cosa? Fosse vero che uno, io non ho mai sfiorato una donna in vita mia senza la sua volontà. Per me queste cose vanno punite nella maniera più severa possibile. Ma non c'è dubbio. Cioè, non per c'è me dubbio. Gli anni che uno può prendere per una violenza sulla donna oggi sono troppo pochi rispetto al danno che si fa. Troppo ma infatti, pochi. Giustamente per me ci carcere. Devono essere delle pene di una gravità e sono addirittura basse le pene che si danno oggi. Troppo basse. Secondo me mettere le mani addosso a qualcuno senza che questa persona voglia. No, a una donna. Senza una donna, chiunque. Senza che questa persona voglia. Stiamo parlando però dello stupro nei confronti di una donna. È una roba di una gravità assoluta e le pene che vengono date sono troppo poche. Poi ovviamente mi dispiace per i figli, per la famiglia, eccetera, per la moglie, ma chiamiamo quel tizio, quel trapper là che vuole dare le coltellate a Borrelli, vai. Pronto? Chi parla? Sono Cruciani, ciao. Non ho capito, okay. Perché hai minacciato Borrelli? Ma guarda, sinceramente io... Tu che? Detto proprio così, odio veramente le spie. Riguardo la cosa dell'acido, ho esagerato, ma comunque... Ma non è solo l'acido, amico Baby Saiyan, io non so chi sei tu, cioè non so che lavoro sono fai. Sono un trapper, sono. Pure, sei un trapper. Cioè, hai parlato dei suoi figli, della moglie, di uccisione. Perché lo hai minacciato di andare a Napoli e di... Non ho capito. Ma perché lo hai minacciato direttamente? Cioè, dici che tutta Napoli lo vuole fare fuori? Ma di che stiamo parlando? Ma quelle sono minacce gravi. Ok, ho capito, sì, con lui ce l'hanno tanti. Okay. E ce l'ho anch'io perché è una spia. Ma comunque, una spia di che cosa, scusa? Una spia di che? È una spia, è uno che racconta... È uno che fa il suo lavoro, è un consigliere regionale che fa il suo lavoro. Ma comunque, come esempio, io mi ho preso ad esempio Brumotti o altra gente. Ma che c'entra Brumotti? Quello fa il giornalista? A parte sono che tutte e due, anche lui è un... come non è un giornalista, scusa. Emilio Borrelli fa il consigliere regionale, ma amico mio, tu l'hai minacciato gravemente, ma hai detto delle cose incredibili, a parte che hai detto che non fai un cazzo e pippi, vabbè d'accordo, ognuno fa il cazzo che vuole nella vita. Ok, ci siamo fino a... Ognuno fa il cazzo che vuole, poi uno si assume le responsabilità. Poi hai detto vengo a Napoli, appena arrivo a Napoli, che cos'è che faresti appena vai a Napoli? Cioè, cosa ho detto, cioè, nel ho capito, adesso che non c'hai le palle per ripeterlo, cioè fai il figo sull'Inter. No, ce l'ho le palle, ma io posso dirlo anche in faccia o anche in giro, non ci sono problemi. E che cosa vuoi? Lo vuoi? Ti auguri che venga fatto fuori? Non ho capito. C'è gente che, per dire, violenta bambini, c'è gente che ammazza gente, cioè io gli ho fatto delle minacce, sull'acido è esagerato, non lo farei neanche mai, ero un po' fuso e l'ho detto. È rifatto. Una spia. Ma una spia di che? Uno che denuncia delle cose, che cosa ma vuol come? Dire? Ma come? Fa dei servizi del cazzo, è uno speculatore, esagera. Uno speculatore, uno che fa il suo mestiere, denuncia alcune cose che non vanno, punto e basta. Perché non può denunciare i parcheggiatori abusivi? Potrà avercelo con i pregiudicati, con i delinquenti. Io ho dei precedenti, allora io difendo la gente come me che magari ha bisogno di mangiare. Che precedenti hai tu, scusami? Ho alcuni precedenti. Cioè, posso risentire un attimo le accuse più gravi che gli fai? Non risentiamole insieme, dato che non le vuoi ridire, dato che fai tanto il figo e poi non hai il coraggio di ridire quello che hai fatto, quello che hai detto già in video. Aspetta un attimo. Vengo a Napoli, te lo giuro che minchia vengo là, ti do 4-5 coltellate, capito? Bang! Capito? 4-5 coltellate hai detto. E poi dico anche bang, vedi che comunque sono sconnesso comunque, no? Ma ho capito, 4-5 coltellate. Sconnesso sicuro. C'è 4-5 coltellate, amico mio, queste sono minacce gravi, cioè tu andresti indagato per minacce, cioè tu andresti... Beh, no, sicuro. Cioè andresti preso, pizzicato. Capirai, c'è la gente che brucia le macchine dei carabinieri, violentano bambini. Io ho minacciato uno. Scusa. Che ho preso magari mio padre con pregiudicato. Ma non è che lui se la piglia. Ma non è che lui se la piglia, con tutti i pregiudicati, amico mio. Cioè, non è che se la piglia con tutti i pregiudicati. Le coltellate, coltellate. Ho capito, so cosa vuol dire. Coltellate. Dunque, tu andresti a Napoli a dare le coltellate a uno. Tu arrivi a Napoli e dai 4 coltellate. Ma ti pare normale a te? Ma può essere normale o non normale? Dipende uno come la pensa. Io sto dipende come di la pensa. No, ma siccome una, cose, ma, non, ma sì, ho capito. Ma non è che si ragiona sulle coltellate, però. Tu dici è una spia. Ma che vuol dire una spia? Che vuol dire spia? Rispetto a che spia? È una spia, se la canta, fa dei servizi. È dalla parte dello Stato. Ma certo, perché tu sei contro lo Stato? Perché tu sei contro lo Stato? Io sono dalla mia, vivo senza... senza regole. Qualche regola ce l'ho, diciamo. Le tue regole, diciamo. Cioè... con le mie regole, sì. Come te lo spiego? No, però io, ma tu me lo puoi spiegare come vuoi, perché non sei, evidentemente in questo momento sei anche lucido rispetto a quando fatto il video. Che ne so, nel video dicevi che eri fatto, hai fatto pure il gesto della... com'era il gesto là? No, veramente ho bevuto lo sciroppo, quello che mischi con la codeina, quello che... cioè, eri fatto di qualcosa, io adesso non sono, sono tanto pratico di queste cose, ti eri fatto di sciroppo, di qualche cosa, di qualche sostanza così. Sì. Però, amico mio, tu di che ti fai normalmente? Cioè, ma di che mi faccio? Si vede nelle canzoni, si dice, lo sanno tutti quanti. Non lo so, non ti conosco, tutti quanti. Ma tu hai mai visto qualche video mio? No, poco, poco. Devo dirti la verità. L'unico video che ho visto è quello in cui ha minacciato uno dicendo che gli devi dare 4 coltellate e che tutta Napoli vuole che lui sia... sentiamo un'altra cosa un attimo. Vediamo un po' se ti riconosci in questo video. Immagino di sì. La seconda cosa, fatemi sentire. Devi fare una brutta morte come Saviano sotto scorta. Guarda qua, ti tiro fuori il cazzo, posti questo. Pezzo di merda, sei uno snitch del cazzo. Sto tutto fatto... oi bro, oh, fanculo lavoro, fanculo Borrelli, spia come Brumotti, bam bam. Sei un infame, sei uno snitch, hai capito, ti fanno Borrelli, Borrelli ti fanno, hai capito, mi puoi solo succhiare il dick. Te, tua moglie, tua figlia, fate schifo. Ti fanno, che vuol dire ti fanno? Cioè ti fanno significa che ti ammazzano, ti accoltellano, ti... è una spia, per me è una spia, hai capito? A me non mi piacciono le spie. Però ti vorrei fare capire. Italiano, ho sbagliato il nome perché Saviano non è neanche morto. Pure ho capito che non connettevo. Ho capito, ma pure Saviano, sì, ho capito. No, ma... ho capito, ma scusi, qui c'è signore, scusi. Dimmi Parenzo, dimmi tu. Signor Trapper, ma chiariamo le cose. Lei in quale cultura giuridica è cresciuto? Allora, questa sequela di insulti minacce che abbiamo sentito devono essere consegnate immediatamente alla Procura della Repubblica competenti. Lei deve salire su una di quelle macchine blu con delle strisce bianche con sopra scritto una parola, si chiama polizia. Ci deve essere un lampeggiante blu che la porta in una questura, la interroga e poi la mette in via precauzionale a Poggio Reale. Vabbè, siamo d'accordo? No, in via precauzionale. Siamo d'accordo o no? A Poggio Reale. Ma non lo so, adesso questo non lo so, galera o non galera. Da qualche parte? Io ho fatto sta che noi siamo dalla parte dello Stato, uno deve essere. Ma lei dalla ha minacciato le persone. Ho ammazzato 10 persone. No, minacciato. Ma hai minacciato uno gravemente di dargli le coltellate. Dice tutta Napoli: arriva a Napoli e ti do le coltellate. Poi... ma perché gli vogliono bene a Napoli, secondo te, a lui? Ma non lo so, ma non è che sei tu a decidere se gli vogliono bene o no. Qualcuno gli vorrà bene, qualcuno gli vorrà male, qualcuno lo minaccia. Ma non sei neanche tu a decidere quello che dico io. No, io però posso giudicare. Siccome tu sei un trapper, un personaggio che ha pubblicato un video, io giudico quello che dici, posso? Posso? Okay. Mi sì, è permesso. Sì. Baby Saiyan, ti penti di quello che hai detto? No, solo l'acido ti pensi, solo dalla parte dell'acido. Senti, che ti devo dire? Quello è una spia, mi sta sul cazzo. E dunque non gli chiedi scusa, come tutte le altre spie vanno fatte fuori, vanno eliminate le altre. Beh, meglio che spariscono dalla circolazione. Questo è il messaggio che vuoi dare. No, di queste cose preferisco non parlare. Ah, non parlare. Adesso il trapper come se la fa sotto, il trapper che no, fa No, perché potevate almeno avvisarmi, perché io mi sono spostato. Ma avvisare di cosa? Uno che scrive questo dice: scusi, signor criminale, signore che ha minacciato, la stiamo avvisando. Ma anche lei è un personaggio. Certo. Uno, lei dice delle cose vomitevoli, minaccia le persone, poi dice: no, potevate avvisarmi. Ma avvisarmi di che cosa? Di telefonarmi adesso, così avremmo parlato più tranquillamente. Ma come più tranquillamente? Ma cosa c'è di tranquillo? Siamo alla follia qui. Cioè, il signor Trapper minaccia un signore di dare delle coltellate, e peggio ancora. Poi dice: mi dovete avvisare prima. Scusi, signore, che minaccia, possiamo farle un'intervista? Ma di cosa sta parlando, Trapper dei miei coglioni? Vabbè. Vedi che anche tu poi sei maleducato quando ti arrabbi. Vedi che tutti abbiamo questo lato. Sì, ma io non è che dico che bisogna ammazzare qualcuno, però scusami, io mi posso incazzare. Ma non è che dico che bisogna dare le coltellate a qualcuno. Vuoi chiedere scusa a Borrelli? No, con Borrelli poi parliamo tramite avvocato. Chi? Avvocato, vabbè, ciao, arrivederci Saiyan, baby Saiyan. Ciao, arrivederci ciao, a tutti, ciao, grazie, ciao, buona giornata. Pure, buona giornata, vabbè, grazie, buona giornata. Vabbè, ciao. Grazie, ciao, viva. Ciao. La Zanzara. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi. Sono pulito da 6 mesi quasi, non tocco cocaina e crack da 6 mesi. Sono veramente un'altra persona. Ho salvato qualche dente. Vi ringrazio, grazie a tutti, ciao, ciao, arrivederci. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie. Yeah! Inconfessabili. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie, dal profondo del mare, dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Demone scimmia! Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità? Ma solita merda! Un dottore chiamato un dottore. Cosa? Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude. Quando? Del Nazional Popolare. Tappi! Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Eccolo. Giuseppe, se chiudete questa disgraziata trasmissione, giuro che vengo lì e mi incateno tutta nuda sotto Radio 24. Ah. I love my radio. Ragazzi, io faccio parte di quella percentuale di donne che ci va su Pornhub e mi piace vedere i neri che leccano le fighe bianche. Beh. Sono razzista? No, no, no, direi di no, direi di no. Buonasera, buonasera Giuseppe, mi sembrava di essere sul set di un film porno. Fatele più spesso questi collegamenti, eh. Quali collegamenti? Con la Morellata. Con la Morellata, con chi? Con mio fratello, non ho capito. Pronto? Sì. Oh, buonasera, lei ha vinto il campionato mondiale dello sputo della ciliegia, dell'osso della ciliegia? Mondiale non esageriamo, no, è laziale. Laziale, sì. Beh sì, però è considerato il campionato del mondo dello sputo. Com'è che si fa? Sono Cruciani in diretta da Radio 24, buonasera. Allora, aspetta, buonasera. Non c'è da ridere, no, non c'è no, da ridere, no, no, è una no, tragedia. Aspetta, allora, lei è un imprenditore, giusto? Aspetti, però non si sente bene, amico mio, non si sente bene. Dove si... adesso? Sì, meglio, si colleghi bene. Lei è bene. Un imprenditore, ma è associato a Confindustria? No. Lei però è un imprenditore. Chiudi. Com'è che via, si, chiudi, cioè com'è che cazzo, si chiama? Lei facciano, perché quelli che sputano per 22 metri, perché il record mi sembra questo. Vedi, no, ripetiamo però che non è associato. Come, scusa? No, però ridiciamo che non è associato a Confindustria. 22,80 è il record. Diciamo che è un imprenditore che non è associato a Confindustria e che si diverte a sputare. Io non ho altro da aggiungere. Si diverte a sputare il nocciolo della No, della c'è casa. Un campionato. Cioè, ditemi voi sì. Se c'è posso qualcuno. Posso chiedere per chi vota lei anche? Allora, abbiamo capito, lei non è associato a Confindustria, questo già mi rassicura, e sputa, è uno dei campioni di sputo. Ma non sputa, prende due, c'è un campionato di sputo. Però non è iscritto a Confindustria, questo mi rassicura. Due, per chi ha votato lei alle ultime elezioni, scusi? No, non mi ricordo. Sì, non si ricorda. Com'è che si faccia nome e cognome, perché lei è un campione, a modo suo è un campione. Faccia nome e cognome, prego. Sono Mauro Chiaverino. Mauro Chiaverino, che ha il record, no, siccome Salvini è stato accusato di aver mangiato le ciliegie mentre Zaia parlava di morti, allora qui abbiamo, forse avrebbe fatto meglio a stabilire un nuovo record, magari anche lui ha nel suo DNA o tra le sue capacità quello dello sputo. Cioè, questa gara in cosa consiste esattamente? Si è svolta, credo, sabato scorso, no? Allora, come funziona la storia? Ma che cos'è? Come fu? Beh, la gara di sputo, credo, dell'osso della ciliegia, no? Del nocciolo. Del nocciolo, della ciliegia. Sì, della ciliegia. Che succede? Tu te mangi la ciliegia e dopodiché la sputi, è molto semplice. Sì, mangi, hai due possibilità, due ciliegie, mangi la ciliegia e poi devi sputare il nocciolo. Devi sputare il nocciolo della ciliegia. E dove sei arrivato sabato tu, a quanti metri? Sabato 16 e qualcosa ho fatto, non 16, molto. Ragazzi, ma come non cazzo è si fa? Solito. Non è il tuo solito, perché di solito fai una ventina di metri? Sì. Una 20... Tu saresti capace di sputare a 20 metri il nocciolo di una ciliegia, David? No, non saresti sincero, capace. No, ma il signore è un imprenditore, vedi che anche gli imprenditori possono fare questa, hanno diciamo delle grandi che capacità. Non è iscritto a Confindustria. Ah, no, perché però sarà un piccolo imprenditore, cosa vuol dire? Non è iscritto, non ha bisogno, cioè, di esistere i piccoli imprenditori, la PMI è iscritta a Confindustria. Allora, diciamo la verità, Salvini cerca di stabilire un nuovo record, di battere questo signore, dato che mangi le ciliegie, sarebbe no, come non è possibile? È possibile. Ma come si fa? Cioè, quali qualità bisogna avere? Cioè, polmonari, che tipo di qualità bisogna avere per arrivare? Credo che siano polmonari. Ma 20 metri, ma guarda che 20 metri è tanto, 20 metri sputare il nocciolo di una ciliegia a 20 metri. Come si è, sì, prego, come per si è allenato, voglio capire. Cioè, lei si allena per fare queste cose? No, non mi sono mai allenato. Ho capito, ma che cosa ha dentro, cazzo? Dentro il corpo? Dentro i polmoni, che ma cazzo cosa c'ha? Ha dentro la testa, andrebbe detto, andrebbe chiesto. Ma la gara... testa, no. No, tranquillamente, non è che. Ma infatti, cosa... non c'è nulla di cui vergognarsi. Qual è il problema? Infatti, è un evento che si fa da anni per la piazza ciliegia per Cilleno. Ma scusi, lei sputa anche, normalmente a sua moglie, che la do in faccia, eccetera. Ogni tanto. Assolutamente no. Ma sarebbe divertentissimo. Puh, tieni. Non sono così violento. Vabbè, ciao, amico mio. Lei potrebbe essere un buon esempio per Salvini. Salvini, batti questo record di questo signore, di questo imprenditore, se hai coraggio. La prossima volta mangi la ciliegia. È stato un piacere. Ma nello stesso. Ciao amico mio, ciao. Buonasera. Vi sputo. Tu vi sputo. 22 metri, ragazzi, 22 metri di record. E lo diciamo qui, fuori dal coro. Secondo me dovrebbe invitarlo Giordano, questo qua, a provare la cosa, a provare potrebbe lo sputo della ciliegia. Potrebbe mettere la foto del governo e poi mettere quello lì a sputare a 20 metri. Allora, stasera faremo la gara di sputo della ciliegia. Ne parleremo stasera? Sì, con Giorgia Meloni, Matteo Salvini, sai, voglio provare qui in studio se riesco ad arrivare almeno alla porta. Cioè, porto un po' di ciliegie, devo riuscire ad arrivare alla porta. Non riesco. Sputare nello studio di Radio 24? Sì, ma sputare il nocciolo della ciliegia, voglio sputarlo sul vetro. Nello studio di Radio 24. Carminati è uscito dal carcere. Sì, vabbè. E ha cominciato a chiamare in giro come al solito. Senti. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, sentite lo sto nome. Chi è? Io mi chiamo Massimo Carminati, sentite lo sto nome. Me lo sono segnato, adesso. Io sono quello che abita là. Abita là dove? Io sono quello che abita là. Bravo. Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Che devi fare? Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Bravo. Segna il tuo nome, ascolta a me, così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. E dimmi chi sei, così me lo scrivo, così la prossima volta il telefono me lo ricordo. Massimo Carminati, segnalo, capito? Segnatelo. Ho segnato, Massimo Carminati, KMKN. Massimo Carminati, segnalo. Capito? Segnatelo. Ho segnato. Quando se non mi attacca il telefono entro domani, a me non mi frega un cazzo, vado su spazio. Poi venga a cercare te. A me viene a cercare. E sai che cazzo me ne frega di attaccare il telefono o no? Che lavoro? Segnalo il tuo nome, ascolta a me. Così vai su internet e sai chi cazzo sono io. Fa una cosa, segna quest'altro indirizzo. Vedi la naffa in culo, così vedrai che ce l'hai o trovi subito questo del telefono, capito? Brigate, non perde tempo, dammi retta. Segna dello sto tornando a fanculo, capito? Io sono quello che abita là. No, bisogna dire che il signor Bracconeri l'avete riconosciuto tutti, non c'ha paura di Carminati, non c'ha molta paura di Carminati. Ma non ha capito neanche chi fosse. Non lo so, aspetta, mica si è fermato lì. Segna il suo nome, ascolta a me, così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Ma chi sei? Se non mi attaccate il telefono entro domani, a me non mi frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cercare te. E andiamo a cercare pure subito, ma che cazzo sei, ha scimolito, ma battene a baffanculo. Se mi venite a fare l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Bravo, mi raccomando però, non ti muovi da là, capito? Capito, non te devi muovere, se non ti attacca nel telefono. Siccome sei mezzo rincoglionito da come ti sento al telefono, può essere che te trovano, invece sta fermo, mettete con ombrello in mano così ti riparti al sole, perché già mi sembra che c'è un po' il cervello bruciato. Massimo Carminati, segnatelo, capito? Segnatelo. Lo so segnato, sì, me lo so segnato. Io sono quello che abita là. Sì, ma si cazzi, per me può abitare dove pare, ma che cazzo me ne frega a me? Segna il suo nome, ascolta a me, così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Everybody that is giving up. fine. Mario da Brescia, dai, Mario da Brescia, ragazzi. Mario ciao, da Brescia. ciao. Dimmi. Cambiamo discorso, voi visto che questo è un orario un po' particolare dedicato ad alcune cose. Volevo sapere se... Quale orario? Qui non ci sono orari, qui non c'è orario, non c'è mai orario qua, mai, mai. In questa fase si può parlare di alcune cose. In poche parole, ti dico chiaramente, sono stato con un ragazzo e sono rimasto attaccato a lui. Di conseguenza... Non ho capito, scusami, sei stato? Allora, io vado con ragazzi e con ragazze, e mi piacciono anche i giovani. Cosa è successo? Vai con ragazzi e ragazze, con uomini e donne, non è che vai anche con gli uomini? Sì, anche i trans? Va tutto bene, l'importante è che sia bella roba. Ho preso un mezzo pastiglietto di quelle là, cosa è successo? Che non riuscivo più a staccarmi da lui. Sono dovuto andare dalla camera mia al frigorifero con lui davanti e io dietro lo spingevo. Vabbè, ragazzi, non diciamo cazzate, Mario. Non cominciamo a raccontare puttanate. Perché... A prendere del ghiaccio? Sì, tutto. E poi che hai fatto? E poi ti sei attaccato al lampadario? Cosa hai fatto? Non è una barzelletta. Ho capito, che cosa vuol dire? Hai fatto la punturina? Che cosa hai fatto? Che cos'è che non... No, a quanto pare... Sentiamo un'altra cazzata? Mezza pastiglietta mi si è ingrossato. Non riuscivo più a staccarti, sì, certo. E col ghiaccio che hai fatto? E col ghiaccio cosa avresti fatto? Non ho capito. Col ghiaccio ho messo del ghiaccio tra me e lui, pian piano, sono riuscito a questa stronzata, a questo racconto del fatto che tu, perché hai preso una pillolina, non ti sei staccato analmente da questo signore, da questo ragazzo, da questo giovine. No, non è possibile. Anche altri, ma è una cosa di questo genere. Nessuno succede perché è una puttanata, è una stronzata. Succede che uno va in ospedale ogni tanto ricoverato perché ha cercato di introdursi qualcosa nell'ano, introdursi qualcosa da qualche altra parte. Succedono queste cose, certo. Crutani. Ma il fatto che non ti sei staccato da uno è una puttanata colossale. Ma siccome io li fiuto i fake stavolta, io sono io che li fiuto bene i fake, sei un fake assoluto, un fake totale. Fermo lì. La Zanzara. Cruciani, io sono Alberto da Houston e qui ti ascolta molta più gente di quella che pensi. Qui lavoriamo tutti come i tori e paghiamo tutti le tasse. E si sa, dal Texas vengono solo tori o checche. Ciao Crucio. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Facciamo formare il pubblico, perché non mi stanno bene a me queste cose. Famo formare il pubblico, poi facesse le trasmissioni Parenzo, Cruciani, me ne frega un cazzo. Queste demo che fanno la musica rap, trap, trupp, trap, una razza perde. Che cazzo, se poi lo male dei coach, prima la musica era melodia, passione. E non abbiamo mai finito un film. Davide! Preferivamo scappare. Prima la musica era melodia. Cosa scelta gli occhi rossi poi. Parenzo. Preferivamo scappare. Queste demo che fanno la musica rap, trap, trupp, trap, una razza perde. Che cazzo, te fai un male di coach. Prima la musica era melodia, passione. Cruciani, proprio non ce la puoi fare, ma che cazzo è sta roba delle sale giochi che stanno chiuse? Ma sei completamente cretino? Ma ci sono delle famiglie disintegrate per il gioco d'azzardo e tu sei lì che fai la politica del gioco d'azzardo per non favorire le mafie? Ma che cosa stai dicendo? Sei un pazzo, sei veramente un matto, te lo dico io. Ciao. Cruciani, sei un fascista di merda. Piazzale Loreto 2020, preparati. moscia banana che sta dicendo? Sta moscia banana impotente, non impune che va. Intanto burdello impotente. Io una vita pagati di burdello e ha giunto a occhiavo con mano ciuccio pure devo due giorni. Con tre femmine a voto, sta scemo l'impotente. Sarei se sta pippa moscia impotente, con sta picciacca a moscia appeso, loco. Avanti Paolo, Paolo da Roma, vai, vai. Peppe! Dimmi Paolo, dimmi. Mi senti? Sì, dimmi. Peppe, a parte che io faccio parte del gruppo Liberi Armati, Sì, va bene, quello sti cazzi. Si capisce dalla voce. Beh, certo. No, vabbè. Dimmi Paolo, dimmi. No, dimmi. Volevo dire una cosa a Parenzo, Sì, dia qualcosa a Parenzo. Prego, sì. Mi dica pure. Mi dica. Dimmi una cosa, ma mi tu dica che pure, a Prati? Mi dica tu pure, che a Prati? Mi dica pure, no. Stronzo, mi dica tranquillamente. Io sono il cameriere di Piazza Ravona che ti sputo nel piatto, ti ricordi qualche settimana fa? Come dice, non ho capito, scusi, hai gentile, nel piatto, hai gentile nel amico, dove non sono mai Parenzo. Venuto a mangiare a Piazza Ravona, ma mi dica, gentile ma amico. Ma io ti aspetto. C'è dunque, cosa? Mi faccia capire, prima di tutto, mi faccia capire, a lei piace Cruciani, giusto? Mi faccia capire. A lei no, piace io volevo sapere, ma tu lo sai dove, siccome tu abiti a Prati in una delle tre V, che io so dove abiti, perché io ho fatto 8 anni il Pony Express. Questo però è gravissimo, non è che si può rivelare. Caro mio, non è che si può rivelare, non stai si può rivelare. Di cosa stai ma io infatti, non lo dico. Ma no? Lei che cosa vuole, caro volevo amico? Sapere, che sì, ma tu lo sai sì. Dove sta Piazza De Bosis? Lo sai dove sta ma chi Piazza se ne frega, Bosis? Che cosa ma vuoi, che punto Paolo? Città cosa qua, vuoi? Google Map. Ma siccome c'è un obelisco alto 20 metri, certo, dove c'è scritto Mussolini Dux. Sì, sì. Ma come mai nessuno ha le palle di andare là con pala e piccone? Perché sarebbe un vandalo. Perché sarebbe un vandalo. Chiunque abbatta un monumento storico è un vandalo. Dopodiché, Cruciani, quel monumento ci deve ricordare quanto era stronzo, Sua Eccellenza. Ogni volta che uno ci passa davanti, deve dire: ammazza quanto era coglione questo qui. Si è fatto costruire un obelisco con sopra scritto Dux. Quindi va lasciato là. Capo dei Liberi Armati, rispondi tu, ti prego. No, Paolo, che cosa vuoi che risponda? Io rispondo semplicemente in un modo. Ti percepisco io come fascista. Ma io non me ne frega un cazzo, ma io non passo davanti e dico quant'era stronzo. Era stronzo nel senso che era criminale. È stato uno statista. Ma non me ne frega niente a me di Mussolini. Che me ne frega di discutere di Mussolini? Non me ne frega nulla. È stato un dittatore criminale, come tutti i dittatori. Cioè, punto e basta. Come altri dittatori comunisti. Che hanno grandissime responsabilità, appunto. Perché non ci sono stati dittatori comunisti? Non ci sono, certo, stati. Ma non in Italia. Non in Italia perché non c'è stato il comunismo in Italia. In altri paesi sì, però c'è stata la dittatura comunista in moltissimi paesi, ancora Giuseppe, più longeva di quella fascista. Giuseppe, ascoltami un attimo. Io ti sto dicendo, se hanno imbrattato la statua di Montanelli Milano, dimmi. È perché qualcuno ha fatto quell'obelisco. Allora, prima batti l'obelisco. No, sto dicendo, prima batti l'obelisco. Sì, certo, in teoria sì. E poi, ciao Poli, ciao Poli, ciao. Brasile? Direttamente dalla cucinetta magica. Buona Brasile, ciao Brasile. Buonasera. Il poro Paparezzo, c'ha la voce come Carmelo del Notorious. Ma perché? Perché bravo, hai notato? Perché c'ho un po' diamo di mal un abbraccio, di gola. Diamo un abbraccio a Carmelo del Notorious, innanzitutto. Carmelo, chi è Carmelo grande Notorious? Gestore del Notorious, che c'ha la voce tutta rauca, grandissima. C'ho un po' di mal di gola, bravo. Com'è che c'ha la voce? Com'è che c'ha la voce, no, Carmelo del Notorious? Com'è che c'ha la voce? Cazzo, Paparezzo, mi raccomando, Brasile, caduta, siamo a tra. Con la tuta può entrare, lo dico, Devi sapere, un che, po' Carmelo, di Brasile, devi sapere che Carmelo del Notorious ha la voce così per altri motivi che non sono, che non sono la voce, per altri motivi. Beh, amico mio, è una storia molto lunga, ma è il gestore, il gestore di locali notturni romano molto conosciuto, signor Carmelo. Non l'ho mai conosciuto, vogliamo, mai dire, avuto vogliamo dire, Giuseppe, che sì, finalmente in Italia stanno uscendo anche i bravi ragazzi. Oggi è uscito il grandissimo Massimo Carminati. No, vogliamo dire, ragazzi, beh, adesso, diciamo, ragazzi adesso, che non hanno fatto nulla. Adesso, signor Brasile, la condanna. Adesso un attimo, perché si può dire, io diciamo ero felice non per l'uscita di per sé, ma semplicemente perché è stato applicato una regola del diritto, che è appunto che una persona. Ragazzo, però, proprio bravo ragazzo. Io lo conosco personalmente, bravissimo ragazzo. Signor Brasile, non si può, non lo so, neanche signor questo, Brasile, si può dire una cosa, si può dire, non era un bravo ragazzo, non è un bravo ragazzo, ha commesso diversi reati, eccetera, per questo reato. Ma quello può succedere, ma può succedere, amico mio, ma è uno, sono semplicemente scaduti i termini, quindi giustamente è uscito, ma adesso da qui a dipende. Ma sono scaduti, dai, come sono scaduti, signor Brasile, non fallo, Massimetto, adesso Massimetto, questo qua non si può dire, Massimetto, dai, signor Brasile. Siriano, lei mi sembra che abbia fondato un partito, mi sembra di capire. Poi parleremo di una cosa. Borgate e famiglia, Borgate e famiglia. Siamo usciti sul Corriere della Sera, amici belli. È tutto finito. Borgate e famiglia. Uscito sul Corriere della Sera, Borgate e famiglie. Ma qual è? Riprenderò il centro Italia, ragazzi. Beh, adesso. Ve lo dico adesso. Ma allora, chi è che finanzia il movimento, scusi? Signor Carminati. Signor Carminati. Io, signor Brasiliano finanzia tutto, Pomaretto. Che finanzia, scusi? Signor Carminati, magari. Possiamo far iscrivere Carminati? Puoi far iscrivere Carminati? Mi sembra una buona idea. Ma non ti preoccupare. Facciamo un passetto alla volta. Dopo te lo dico io che facciamo iscrivere. Allora, però mi sembra che il brasiliano in questo periodo ha perso un po' di baldanza. Perché è successo qualcosa con la sua fidanzata, con la sua donna. Ah, diciamo. Mi dispiace questo. Beh, con la signora Alice. Diciamo che sono stato abbandonato in quel di Pietralata. Hai fatto qualche cosa a Brasile? Hai fatto qualche porcheria? Sei tornato tatanato. Sta scoperto qualcosa. Sto lavorando troppo, amico mio. No, t'ho visto. Hai detto nei tuoi social, ha detto ho fatto una cazzata. Ho ricominciato a fare. No, nulla di tutto ciò. Diciamo che in questo frangente, quando stavo senza Alice, sono uscito con una pornostar, ma niente di che. Ma se io. Ma scusami, però. Cioè, se io per caso dicessi a mia moglie: scusami, sono un attimo uscito qualche giorno con una pornostar, quella giustamente cambierebbe, come dire, le chiavi di casa. Cerchiamo di capire cosa è successo. Tu hai una fidanzata Alice e nel frattempo ti sei trombato una pornostar. Diciamo, no, questo. No, ci siamo lasciati perché veramente stavo lavorando troppo e stavo dando poca importanza a questo rapporto. E questa pornostar? Sono stato lasciato e diciamo questa pornostar mi ha fatto compagnia in questi giorni di mancanza. Ma capito, questa sarà pure incazzata, sta Alice. Scusa, la vuoi riconquistare o no? Sta incazzata. La vuoi riconquistare o no, questa qua? Vorresti riconquistare, ho chiesto venia, sto chiedendo venia in tutte le lingue. Cercherò di riconquistarla, Giuseppe. Perché? Che ma cosa regalale ti un grande mazzo di fiori, portala al CIA, al CIA non so. Gliel'ho portati ieri che lei lavora a Tor Vergata, ecco. Al CUP di Tor Vergata. Poi perché magari portala al teatro all'aperto quando aprirà, al teatro, ma bellissimo, a Villa Borghese, al teatro shakespeariano. Ma quale teatro? No, ci sono andato oggi a Villa Borghese, metto all'Even ad allenarmi, Paparetto. No, ma lì c'è il teatro shakespeariano, bellissimo quel teatro. Bellissimo, come no? Bellissimo. Come no? Stato. Ma che c'è stato? Ma perché? Ma perché? Dovevo andare a pisciare, ma sono fermato là. Ma come si permette? Ma il teatro shakespeariano meraviglioso, scusa. Cosa però pensi? Scusami, brasiliano, la cosa è questa: vuoi fare un appello ad Alice? Poi ti presento una persona, perché altrimenti. Gli dico ad Alice che manca da morire, basta con tutte le cazzate. Alice, torna da me, sono disperato veramente. Ho capito, ma ti sei trombato una pornostar, questa qua come fa adesso? Ma niente di che, Giuseppe, manca un altro, fa schifo, fate, dica la verità, Giuseppe. Cioè? Gli bussava pure la socca, te dica la verità, Giuseppe. Ma che modo di dire? Cosa vuol dire? Che vuol dire? Che vuol dire? Che vuol dire che le puzzava la sorca? Oh, mamma mia, che vuol dire che c'era un brutto odore? Giuseppe, ti dico la verità, penso del sorcio, capito? Era un brutto odore, Sono sincero, sincero, come vuol dire? Ma è stata una bella trombata o no? Almeno appunto. No, Giuseppe, no. Deluso, meglio Alice. Tutta la vita, para toda la vita. Fermi tutti, poi c'è un grande incontro qui, è un grande incontro perché fra poco ti presento una persona che è il tuo esatto opposto, caro Brasile. Fermo lì. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. La Zanzara. Cala. Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. Le misure del cazzo della puntata di lunedì, nell'ordine 22, 24, 22, 25, 32. Ragazzi, ma come cazzo fate? Cioè, mi sta prendendo malissimo. Che voglia di cazzo, mamma mia. Allora, grande collegamento dal lettuccio magico del brasiliano, innanzitutto col grande Massimiliano Minnocci. Ma tutta sta pubblicità, Giuseppe, ma che è? Ma che sta al cinema? Cazzo, sei sempre il numero signor uno. Brasiliano. Sei sempre il numero uno. Uno che ha salutato, come dire, che ha ricordato prima addirittura la scarcerazione di Carminati e ha anche confessato live di avere sostanzialmente tradito la sua fidanzata con una pornostar. Però, caro amico mio, io vorrei capire se tu potresti essere attratto da una persona, anche solo virtualmente. Una persona che è una mia amica, possiamo dire una mia. Una persona che io ammiro molto, che è la signora Marchesa d'Aragona, Daniela Del Secco, Marchesa d'Aragona. Buonasera, signora Marchesa. Buonasera. Addirittura. Buonasera a tutti i miei adorati dai giardini pensili della mia Magione a Fontana di Trevi. Ma come c'è, signora? Marchesa? Scusi, non ci si può rivolgere così alla Marchesa, scusi. Aspetta. Allora, dove è collegata lei, signora Marchesa? Dove è collegata lei dai giardini pensili? Io sono esattamente nel primo giardino pensile della mia Magione a Fontana di Trevi. Di solito quando viene a Milano, come è venuta l'altra sera dalla signora D'Urso, dov'è che alloggia di solito? Lo dica a tutti. Ma non glielo dirò mai, altrimenti ci sarebbe poi la coda fuori ad aspettare. Scusi Marchesa, lei cosa ha mangiato per colazione? Non per la prima colazione, per la colazione. La colazione mia diventa sempre un brunch, viene fatta in codesto modo. Bellissimo. Un pancake. Mi piace proprio fare personalmente il pancake, sì, certo. Le do una ricetta, no, quello non importa, mi interessava però la sua colazione, non la sua prima colazione, quello che viene detto volgarmente pranzo. Sto dicendo, la mia prima colazione diventa un brunch, perché io, essendo nata a mezzogiorno, si sveglia molto tardi. Mezzogiorno vuol dire che apro un occhio, poi quando ne apro l'altro, poi quando finalmente mi sono svegliata, perché un po' Marchesa del Grillo lo sono, la servitù può cominciare a camminare. La servitù. Non voglio sentire volare una mucca. Sostanzialmente lei non fa un cazzo dalla mattina, lo possiamo dire che... Così. No, io sono giornalista da 28 però anni, fondamentalmente, sì, fondamentalmente... Certamente, dimmi, aspetta. Ma era vero che si era comprato il titolo, sta Marchesa, o sto cazzate che dici? No, non ci perché non riesciamo, parliamo un sopra l'altro, cioè io lavoro 18 ore al giorno, scrivo, sono una giornalista, è evidente che non mi occupo delle cose manuali che le fanno. Marchesa, molto meglio, insegni le buone maniere al signor Brasile, ad esempio, no? Cioè le posate, no? Quanti bicchieri e posate ci devono essere su una tavola apparecchiata? Io direi che dal signor Brasile dobbiamo iniziare proprio dalle basi. Mi piacerebbe che lei mi insegnasse, signora Marchesa. Io mi metto a disposizione. Sì. Allora senta, mio caro, mio adorato, lei ovviamente sarà avvezzo ad un non so come voglio dire, lei conosce esattamente le regole, sicuramente avrà un balletto, avrà qualcuno che la... Lei ha detto le buone maniere, no? Valletto. Chi è che non ha un balletto? Avrà un balletto? Io ce l'ho in cantina il balletto. Prego? Ce l'ho in cantina il balletto. Ho sequestrato qualche tempo fa. Ascolti, quello che io volevo comandare. Mi era parso di sentir dire che lei voleva riconquistare la sua amata innamorata. Sì, però si era trombato nel stesso tempo. Vabbè, adesso stata, non si usa questa parola. Questo di non aver sentito, perché francamente sono molto non proprio omologata al torpiloquio. Al torpiloquio. Però voglio dire una cosa, ma questa Marchesa, quanti anni ha, signora Marchesa? Non lei si chiede alle signore. Una settantina, 120, una settantina. Una settantina? 120 anni. Ti potrebbe interessare. Una settantina, si viene col Brasile, gliela faccio ritornare a 40, io lo so. Senta, ma non si dice così alla signora. Scusi, in questo momento io la faccio tornare a 40 anni, lo senta, sa. Senta, lei rimanga dov'è, io sto benissimo dove sono e non è consentito rivolgersi. Io le sto dando udienza perché c'è un amico carissimo che amo. E come le sta dando udienza? Oh, sì, ho capito, questo è un amico. Abbiamo sto dando udienza, ma lei deve stare chiaramente alle buone maniere. Ci può ricordare tutto il suo cognome, per piacere, contessa? Ci riconti? Lei voleva riconquistare la sua amata, perché le volevo dare un consiglio. Che consiglio vuole dare? Intanto lei, appunto, le parlavo di un balletto, faccia ricapitare da un balletto, da un suo amico, una missiva, cioè una lettera d'amore. Ma quale lettera d'amore? Bello questo. Mi ascolti, bello, per favore, perché sicuramente la sua donna la apprezzerà, perché le donne sono molto romantiche. Beh, insomma, adesso... In una carta pergamena, una lettera scritta con inchiostro al gelato. Fammi i ricotti con la pergamena, la Marchesa. Dovrà, senta, ascolti, perché le sto dando un consiglio. Fammi i pippotti che pergamene. Chi sono i pippotti, scusi? Senta, intanto cerchi di parlare in modo adeguato. È come si fa, ecco, allora lei scriverà, si procuri questa carta pergamena, si procuri del chiostro al gelsomino e scriva al gelsomino, mi adorata. Mamma, mi è venuta la sudarella, la vuole riconquistare? Sentiamo la ricetta, c'ha ragione. Mia adorata, bellissima. Ho sofferto tantissimo la tua mancanza. Ecco. Sì. Senza di te è sopravvivere, ma non è vivere. È bellissimo. Sì, io dico così, ma lascia per tutta la vita, perché è adorato. Allora lei è adorato. O non è adeguato lei, o non è adeguata la sua compagna. No, io, signora Gara, io sono molto adeguato, mi creda. Se lei mi vedesse, io sono molto adeguato. Sostiene di essere molto dotato. Chi è signor che parla? Sono Cruciani. Che lo venga per lei e per chi per lei. Con me. La ringrazio molto, la Marchesa ha dato un consiglio. Scusa, la Marchesa gli ha detto di scrivere una lettera con la pergamena di gelsomino. Ha insegnato un galateo. Ma quando cazzo comprava la pergamena? Ma allora la carta pergamena, faccio una lettera d'amore. Brava Marchesa, amica, stava pratica. Ma non si può dire sì brava la Marchesa, però scusi. Questo va bene, io volevo soltanto darle una mano per fare l'amata. Lei mi sembra che sia irrecuperabile, anche secondo me. Chiaramente, anche come voglio dire, il minimo, siamo proprio allo zero spaccato, zero assoluto. Ma perché? È un uomo di Neanderthal, cara contessa, è un uomo di Neanderthal. Ma non è vero. Ma come si permette, signor Pavaresto? Mi ha invitato anche al suo matrimonio. Ma quale matrimonio, ma ti pare? Ma come no? Io sono Parenzo, Chiara, io sono anni adorato, che... Parenzo, adorate, perché io sentivo questa questione di voce. Lo so, perché l'uomo di Neanderthal ha il sopravvento alle volte, chiedo scusa. Esatto. Allora, ma da dove, da quale mondo parla questo signore? Da una grotta. Da Pietralata, da una grotta. Che sei comprata allora, Zitto. Carmelo. Vado in Manco Marchesa, sei, ferma tu. Stai in causa, sai che ti sei comprata il coso lì. Ma quale causa? Ma quale marchesa? C'è la bocca del buffi, ma quale marchesa? C'hai i buffi fino al 2070, marchesa. Ma quale marchesa? Io sono molto amata dalle persone. Ma quale marchesa? Ma come si fa a dire una cosa simile? I buffi alla marchesa? È chiaro che è buffi, a Roma c'hai 10.000 euro del buffi. Che cosa stiamo? Ma non è vero, è molto simpatico, però diciamo che ho capito perché la sua ragazza non farà mai pace con lei. Grazie Marchesa, molto gentile. Molte. Molto basso, molto basso. Grazie Brasile, ti abbraccio. Ciao. Viva i marchesi. Che disastro, ragazzi. Mi dispiace. They say it's time I should be finding love. Andrea da Bergamo. Eccoci, ciao Giuseppe. Allora, Dimmi Andrea. Sai che di prima non era un fake, in realtà la patologia penis captivus esiste. Sì, ma quale dici? Ah, quello là che dice di essere rimasto incastrato. Sì, ma esatto. Siccome si era prenotato su un altro argomento, allora, allora ho avuto il dubbio che stesse raccontando una cazzata. Poi magari è vero, ma tu sai, perché a te è successo di rimanere incastrato col tuo partner. No, in realtà c'è un caso sulla Gazzetta della Martesana di qualche anno fa, di un uomo e una donna che sono rimasti incastrati in un bagno di un supermercato. Sì, ho capito, come si chiama questa problematica? Cioè, come si chiama? Penis captivus. Penis captivus, cioè il pene che rimane incastrato sostanzialmente. Prigioniero, perché la parola captivus. Ma nell'ano, però, nell'ano, diciamo, questo succede. Succede che il muscolo anale, che ha forma anulare, cattura, quindi chiude come una serratura, chiude tutto, quindi quello che c'è rimane lì. Sì. E fino a quando non interviene davvero... Sì. dell'autorità sanitaria, insomma, intervengono davvero con degli anticoagulanti, queste cose. No, ma può darsi, sicuramente può essere successo, ci saranno stati dei casi. Mi sembrava un po' un fake, però tu dici esiste la problematica. Certamente esiste la problematica dell'incastramento, il penis captivus. Diciamo. C'è questo fantastico caso che è avvenuto vicino a Trezzo d'Adda, in un supermercato noto della zona. Purtroppo non siano mai testimonianze dirette, perché le persone di sotto non confessano. Ecco, quel tizio Lì è stato in plein air, in pubblico, perché li hanno portati via con un lenzuolo dal cesso del supermercato. Ma erano due uomini? Uomo e donna, che tra l'altro la donna stava tradendo il marito che stava aspettando. Amico mio, siamo al top assoluto. Luigi da Latina, grazie Andrea, Luigi da Latina. Luigione, Valentino da Milano. C'è Valentino? Dimmi. Era un omaggio alla corte, che è veramente un genio, ma non ho chiamato per questo. Volevo soltanto per Montanelli. Ancora con Montanelli, mi sono rotto il cazzo. Voi due giornalai, non potete non riconoscere il grande maestro, l'unico giornalista vero, puro. State dipingendo un maniaco sessuale. Io sto dipingendo, ma io l'ho difeso in questi giorni. A me che cazzo me ne frega di quello che ha fatto negli anni 30? Ma perché parlate soltanto di queste cretinate? Giustamente, perché dovete far ridere e ci riuscite alla grande. Fermo là, fermo! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Non ce n'è Covid. Bruttani.